Una serata in cui, diciamo, la gente può incontrare il mondo della ricerca, interagendo direttamente con le ricercatrici e i ricercatori. È un'occasione anche di divertimento perché sono, appunto, verranno allestite dimostrazioni, esperimenti, anche appunto giochi adatti per tutte le età e per tutti gli interessi. Sugli argomenti più vari, quindi andiamo dall'ingegneria gastronomica che ci dirà cosa mangeremo nel futuro, fino a capire come funziona la libertà di stampa e la censura, per esempio, oppure anche ovviamente l'intelligenza artificiale, le macchine che imparano a fare cose e chi più ne ha più ne metta. Il tutto sotto un titolo che è Ripensaci. Sì, Ripensaci è il titolo del progetto europeo che finanzia questa iniziativa nella nostra regione e che è una parola importante perché ci pone di fronte a una riflessione che tutti noi dobbiamo fare in un mondo dove tutte le cose che facciamo e che vediamo sono connesse fra di loro, quindi con una complessità molto elevata, in cui i problemi devono essere compresi e possono essere compresi solamente attraverso un approccio che viene dalla conoscenza, dalla scienza e dalla ricerca. Si parlerà anche, immagino, dei mutamenti necessari dei sistemi socio-economici. Esattamente, perché queste sono trasformazioni che sono indispensabili per poter attuare l'altra trasformazione di cui si sente spesso parlare, cioè la transizione gemella, no? Ecologica e digitale. Senza una parallela trasformazione della nostra società e per certi versi anche della nostra economia non si andrà da nessuna parte. Quindi questi sono solo alcuni dei temi. Un altro è il tema grosso della salute in un mondo che evolve, in cui la popolazione invecchia sempre di più, in cui c'è un bisogno sempre più forte di fare uso dei dati sanitari per fare attività di prevenzione. Quindi questi sono tutti i temi in cui la ricerca ha un'importanza fondamentale. Per quanto riguarda Bologna, si terrà in piazza Lucio Dalla e ci saranno 60 stand. Sì, sarà un numero molto elevato di stand, come dicevo, diverse centinaia di ricercatori, anche giovani ricercatori, quindi dottorandi e anche appunto studenti che muovono i primi passi nel mondo della ricerca. E ci sarà Vito, il noto attore, che aprirà insieme al rettore la manifestazione e poi si aggirerà tra la folla, sempre pronto a intervenire con qualche simpatico siparietto, direi. Sì, quindi si fa scienza, ma anche in modo leggero e divertente. Assolutamente, questa è una componente fondamentale, cioè anche i ricercatori si divertono nel fare il loro lavoro, anzi la carriera di ricercatore si intraprende proprio principalmente per passione. Quindi questo è un elemento fondamentale, la motivazione anche nell'affrontare, diciamo così, gli alti e bassi che ci sono nella ricerca scientifica può provenire solamente da una passione che viene anche dal divertimento. Fra l'altro stavo vedendo anche che la ricerca non sarà solo scientifica, ma arriverà a comprendere anche aspetti di arte, architettura e letteratura. Assolutamente sì, l'Alma Mater è un'università che è attiva in tutti i campi del sapere, quindi ci saranno anche, diciamo, iniziative che parlano del patrimonio culturale, quindi dei libri antichi, il patrimonio musicale, si parlerà anche di moda, di turismo, ovviamente sempre attraverso le lenti della ricerca.